Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1861, in Parlamento il deputato Ferrari denuncia il massacro di Casalduni e Ponte Landolfo. I fatti di Ponte Landolfo e Casalduni continuano a turbare chi ha cuore e l'onestà. Che le cose siano andate oltre un limite di civiltà, che si sia compiuta una strage che è indegna di qualsiasi nazione che si voglia dire civile, lo dicono i fatti. Ora anche le parole di qualche politico coraggioso, anche se poco ascoltato. Andiamo con ordine. Il Sud continua ad essere in preda a una rivolta che le autorità cercano di ridimensionare, ma che non si spegne. Il governo vanta qualche successo. L'8 dicembre a Tagliacozzo è stato fucilato il generale catalano José Borges. Al servizio di Francesco II, deciso a restituirgli il regno, lo scorso 14 settembre era sbarcato a Brancaleone Calabro. Nell'ottobre, in Basilicata, ha unito le sue forze con quelle di Carmine Crocco, brigante che aveva già messo in grande difficoltà l'esercito italiano. Lo ha nominato generale e ne ha militarizzato la banda. Dopo i primi successi, tra cui la conquista di Melfi, a Potenza questa piccola armata neoborbonica è stata sconfitta e l'alleanza si è rotta. Borghese è ripartito per Roma, sorpreso al confine tra Abruzzo e Lazio, è stato giustiziato. Ma le forze di Crocco non sono vinte, per niente. Nel sud l'Italia non è ancora una realtà, o lo è a prezzo di una violenza che non pare accettabile. Lo ha detto con grande coraggio alla Camera il deputato lombardo Giuseppe Ferrari, parlando della distruzione di Ponte Landolfo. Io ho dovuto intraprendere un viaggio per verificare il fatto con gli occhi miei. Ma io non potrò mai esprimere i sentimenti che mi agitarono in presenza di quella città incendiata. A destra, a sinistra, le mura erano vuote e annerite. Si era dato il fuoco ai mobili ammucchiati nelle stanze terrene e la fiamma aveva divorato il tetto. Dalle finestre vedevasi il cielo. Qua e là incontravasi un mucchio di sassi crollati. Quante scene d'orrore. Qui due vecchie periscono nell'incendio. Là alcuni sono fucilati, giustamente se volete, ma sono fucilati. Gli orecchini sono strappati alle donne, i saccomanni frugano ogni angolo. Il generale e l'ufficiale non possono essere dappertutto. Se è in mezzo alle fiamme, si sente la voce terribile. Piastre! Piastre! E da lontano si vede l'incendio di Casalduni, come se l'orizzonte dell'esterminazione non dovesse avere limite alcuno. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.